La politica alla prova. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Radio 24 qui a Montecitorio. È morto Giulio Andreotti, il senatore a vita si è spento a 94 anni nella sua casa di Roma, 7 volte presidente del Consiglio, nato nel 1919, ha rappresentato praticamente mezzo secolo di storia politica italiana. E allora noi vi chiediamo anche di mandarci che cosa ne pensate di questo personaggio molto controverso. Ricordiamo i nostri sms al 349-238-6666. Ma veniamo poi a quello che succederà tra poco. I funerali si terranno domani pomeriggio a Roma e non ci sarà cerimonia di Stato per scelta della famiglia. La Camera Ardente oggi pomeriggio è aperta nella sua abitazione di Corso Vittorio Emanuele a Roma. Cordoglio del mondo politico ma anche critiche. Sentiamo Fabrizio Cicchitto del PDL. Ma che ha espresso luci e ombre di una parte della DC. Era un uomo della mediazione nei confronti di tutto e di tutti. Era l'uomo della mediazione nei confronti degli alleati tradizionali della DC. Era l'uomo della mediazione nei confronti del Partito Comunista. Era l'uomo della mediazione nei confronti dei grandi gruppi economici e finanziari. Era l'uomo della mediazione anche con la mafia tradizionale, mentre invece condusse una lotta senza quartiere nei confronti della mafia corleonese. Era l'uomo che in una prima fase con De Gasperi aveva i rapporti più organici con gli Stati Uniti e con la NATO e successivamente invece era uno degli uomini della Democrazia Cristiana che avevano rapporti con l'Unione Sovietica, con il mondo comunista. Nella dialettica che ha segnato e che ha caratterizzato la storia politica del nostro paese, per quello che riguardava il Mediterraneo, c'era una fascia che era più legata ad Israele, Andreotti era fra quelli che erano più legati a rapporti preferenziali con il mondo arabo. Senta, queste luci e ombre, però lei l'ha conosciuto, ci può raccontare un aneddoto personale che quando magari vi siete incontrati qui alla Camera? Noi stavamo discutendo di politica economica, lui ci chiese a un certo punto di interrompere la riunione perché doveva sbrigare una questione e si alzò e se ne andò. Noi sapevamo che la questione che doveva sbrigare erano appunto le dimissioni di Leone. Ritornò dopo un'ora e mezza e come se non fosse successo nulla ci disse possiamo riprendere, diede la parola a colui il quale stava parlando in quel momento, come appunto se si fosse trattato di una giornata di ore di ordinaria amministrazione. Quindi era un uomo molto freddo in certe... Direi che la lucidità e la freddezza erano due facce della sua medaglia. Senta, ma si può paragonare Andreotti a Berlusconi? Sono i due uomini che bene o male hanno dominato nell'Italia del dopoguerra? Non hanno nulla in comune. E questo era il parere di Fabrizio Cicchitto del PDL. Abbiamo sentito addirittura questo episodio sulle dimissioni dell'allora capo dello Stato Leone. E i vostri sms sono molto molto intransigenti. Era ora che smettesse di rubare i soldi dopo 94 anni, scrive Loris. Andreotti morto, meno uno. Invece c'è per esempio Luca da Milano che dice di Andreotti ricordo l'umorismo pungente e rispettoso, al di là dei suoi supposti rapporti con la mafia era un grand'uomo. Critica ovviamente infatti la sinistra. Allora ascoltiamo l'ex leader dei comunisti italiani Olivero Di Liberto. È scomparso un personaggio tra i principali della storia italiana, in particolare della cosiddetta Prima Repubblica, di cui, parlo della Prima Repubblica, ho una enorme nostalgia in questo momento. Figura controversa, i contemporanei hanno qualche difficoltà a giudicarla, come del tutto evidente, e come si disse per uno sicuramente più importante di Andreotti, ai posteri l'ardua sentenza. Ma voi che eravate i comunisti, quindi eravate praticamente eravate la controparte. Assolutamente, ma infatti non ho mica detto che lo apprezzavo. Dico che rimpiango quel mondo in cui vi erano delle contrapposizioni, che erano delle contrapposizioni forti, di pensieri forti e strutturati, e sicuramente, diciamo, oggi del tutto scomparse. Le ombre sul passato di Andreotti sono molto serie, perché sono quelle che attengono anche alla sentenza che lo ha assolto, ma che lo ha assolto per il periodo precedente, diciamo, a quello della prescrizione, appunto solo per la prescrizione. Per cui è una figura che era un avversario, che ha rappresentato un avversario, ma un avversario di livello. Ora i nostri avversari sono degli omuncoli, come d'altro canto anche noi. E anche Fabio infatti ci scrive: Andreotti comunque un Gulliver a confronto dei lillipuziani dei politici odierni. Dio grazie, invece, scrive un altro radioascoltatore, grande uomo, l'ho sempre ammirato, Beppe, grazie Giulio, arrivederci. Grande statista, Gianni Juventino da Ferrara, uno juventino che dice di un romanista grande statista, bisogna sottolinearlo, e speriamo invece che sia il primo di una lunga serie, via la vecchia politica, un altro radioascoltatore. Altro tema della giornata politica è l'istituzione delle commissioni permanenti. Il giorno cruciale per l'insediamento sarà domani, dovranno eleggere 26 presidenti, 56 vicepresidenti e 56 segretarie, ma è scontro tra PD e PDL per decidere proprio le presidenze. Raggiunta sembra la quadra per le commissioni lavoro, ma il nodo è quello della giustizia e delle comunicazioni che Silvio Berlusconi rivendicherebbe per sé. Soprattutto al Senato il PDL vorrebbe mettere Nitto Palma a presiedere la commissione giustizia, ex guardasigilli, ostacolato però dagli ex PM del PD. E alla Camera invece la presidenza della giustizia andrebbe a Gregorio Gitti di Scelta Civica a scapito di Donatella Ferranti del PD, e noi abbiamo sentito proprio Donatella Ferranti. Guarda, io non so nulla, non vorrei fare commenti fuori luogo, insomma, non si tratta di un dispiacere personale, si tratta di vedere quali sono le scelte che farà, che fa il partito, la direzione del gruppo, cioè, ma poi ognuno farà le proprie, ovviamente, conseguentemente, ma vediamo, insomma. Ma c'è in atto questa guerra PD-PDL su questi seggi, su queste poltrone? No, ma non è una guerra, certamente è un governo, diciamo, no, non un governo PD, un governo PDL, un governo misto, dove quindi c'è anche da ripartirsi in base al peso, in base c'è da ripartirsi, oltre i ministri e i sottosegretari ci sono anche le commissioni che devono attuare l'indirizzo del governo. Quindi non è una guerra, credo che sia una legittima ripartizione di compiti. Ovviamente bisogna capire anche quale deve essere l'indirizzo del governo, cioè si capirà anche dai presidenti di commissione. Ma è vero che il PDL vuole le commissioni giustizia, Silvio Berlusconi le vuole? Questo lo deve chiedere a quelli del PDL, credo che sia interessato, ma comunque da quello che si dice, cioè, io non lo so quale sia l'indirizzo del PDL, credo, vedo molto interesse. Vediamo. Particolare. Specifico interesse, diciamo. E questa era la partita sulle commissioni, ma invece l'altro tema, l'ultimo tema di questa nostra striscia quotidiana politica è quello del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle che praticamente ha promesso da una parte a Beppe Grillo di tagliarsi la diaria e che adesso invece ci ha ripensato. Perché? Perché c'è stato fatto un referendum degli eletti che ha bocciato la linea del leader. Deve essere volontaria la restituzione della quota non spesa, ma comunque bisogna sempre redicontare tutto. Percepirà solo 2.500 euro netti e devolverà tutto in beneficenza il deputato Mario Sberna, che però non è un grillino ma è di Scelta Civica. Allora abbiamo chiesto che sta succedendo nel movimento alla deputata 5 Stelle Patrizia Terzoni. Sentiamo. Dal codice di comportamento di Beppe Grillo c'è scritto chiaramente che noi dobbiamo andare indietro la parte eccedenza della retribuzione, cioè 5.000 euro lordi, il resto deve essere ridata allo Stato, mentre abbiamo diritto di usufruire a tutte le altre voci, rendicontarle, punto, non viene detto di restituirlo o no, quindi noi ci siamo messi nella... E insomma abbiamo sentito che c'è ancora qualche dramma nel Movimento 5 Stelle, un saluto da Elisabetta.